got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio, e cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto. Cosa aspettiamo a metterci a tavola? Quindi, come sempre, introdotti da questo film degli anni 60 sull'integrazione razziale, parliamo di cucina, identità e ricette. Stasera abbiamo un ospite che viene dalle isole Filippine. Io do il benvenuto a Christine Chua. Buona serata. Sì, buonasera Valentina. Grazie di essere con noi. Da Colf a imprenditrice dell'anno. Beh, complimenti, tra l'altro molto giovane. Raccontiamo adesso tra poco la sua storia. Però Christine, lei viene appunto dalle isole Filippine e ci ha portato un piatto. Però se capisco bene da quello che mi ha anticipato quando ci siamo sentite, non è un piatto delle Filippine. No, è molto italiano. Di cosa si tratta? È risotto con i funghi porcini. Beh, un piatto di stagione, diciamo, un grande classico italiano. Come mai un piatto italiano? Allora, io ho preso praticamente... cioè, mi è venuto l'amore con la cucina già quando sono venuta qui in Italia. Prima... cioè, non ero così, diciamo... Appassionata, forse era anche molto giovane, perché lei è arrivata a 18 anni. A 18 anni, sì, sì. Poi anche, sì, i piatti filippini comunque, a parte se sono tutti buoni, ma abbastanza complicata per i miei gusti, ecco, per cui... E poi insomma è da tanti anni ormai che è in Italia, ci racconta com'è arrivata in Italia? Certo, allora sono arrivata in Italia nel 2000 e inizialmente ho fatto lavori tipo badante per 3 anni e, con un anziano, un signore di 83 anni, purtroppo... dopo 3 anni è mancato, per cui ho dovuto cercare un altro lavoro. Fortunatamente nel 2000 e, fine 2002 ho conosciuto un mio compaesano che lavorava in una società che produceva illuminazione per le navi da crociera. All'inizio cioè, lavoravo come operaia nel settore dove cioè, dell'assemblaggio. Mi è piaciuto subito il tipo di prodotto soprattutto e da lì è partita la mia passione. Fino ad arrivare, lo diciamo subito, quest'anno a vincere il MoneyGram Award, il premio dell'imprenditoria immigrata, prima classificata, no? La sua azienda che è la Delta Compact, la no? Delta Contract, sì, assolutamente. Contract, che si occupa di produrre corpi illuminati e illuminazione per le navi da crociera, è così? Sì, è così, commercializziamo soprattutto. È stata selezionata l'azienda tra circa 150 imprese straniere protagoniste di queste storie di successo. Lo ricordiamo, ogni anno MoneyGram assegna questo premio agli imprenditori immigrati, che non sono pochi gli imprenditori immigrati. Pensate, in 3 regioni oltre un imprenditore su 10 è un cittadino di origine straniera: in Toscana, Liguria, Friuli, Venezia, Giulia. E le attività presidiate maggiormente sono quelle del commercio, dove le imprese a guida straniera sono 175.000 e delle costruzioni 126.000, così come le imprese di noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese. Nonostante le 629 nuove normative messe in atto dal fisco italiano per complicare la vita agli imprenditori negli ultimi 6 anni, nel nostro paese sono nate sempre più imprese di immigrati che hanno fortemente successo. Sono gli imprenditori stranieri d'Italia a fare 10 punti di PIL secondo il Sole 24 Ore, un articolo di poco tempo fa. E lei è proprio un rappresentante importante di tutto questo. Quanto fattura la vostra azienda? L'anno scorso abbiamo fatturato 1.200.000, e che siamo riusciti ad aumentare il fatturato confrontandolo con 2012 del circa 60%. E quest'anno poi, stimate di migliorare ancora? Speriamo di sì, cioè stiamo lavorando tanto su questo, e non è facile, non è assolutamente facile, però vedo, siamo comunque abbastanza tranquilli perché delle opportunità ce ne sono veramente un sacco. Leggevo che avete una stima di crescita del fatturato nel 2014 del 22%. 22%, sì. Avete anche dei dipendenti? Abbiamo 3 dipendenti. Però non mi calcolo come dipendente perché comunque sono una dei soci. Sono italiani o stranieri di origine? Allora, 2 italiani, che una è la mia collega che mi aiuta per nell'area commerciale, un altro mio collega che si occupa degli acquisti, e lavora con me praticamente mio fratello, che si occupa nella parte tecnica e produzione. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Questa canzone dei Passenger, lei ce l'ha segnalata perché in qualche maniera probabilmente è affezionata a questa musica. Tra l'altro c'è un verso che dice: odi la strada solo quando ti manca casa. È una canzone nostalgica, in effetti. Le ricorda il suo viaggio, la sua crescita anche umana, personale, oltre che professionale? Sì, assolutamente. È vero che comunque ormai casa mia è Italia, perché sono cresciuta qua personalmente, cioè nel senso proprio non solo perché mi ha aiutato molto le esperienze che ho avuto qui in Italia. La canzone dice: lasciala andare. Cos'è che ha lasciato andare per poter ricostruirsi una vita? Lasciato andare un po' la mia libertà come giovane, cioè nel senso mi sono dedicata talmente tanto al lavoro che non sono riuscita a passare come normalmente i giovani ha passato la loro vita, nel senso allo studio, agli amici, cioè divertirsi più che altro. E della sua cultura, della sua famiglia delle Filippine, che cosa ha dovuto lasciare e che cosa le manca? Allora, Filippine rimane, cioè lì ancora mio papà e mio fratello più piccolo, che è anche delle nipote, che sì, vorrei tanto farli venire tutti qua, però purtroppo la possibilità non ce ne sono molte. E mi manca anche soprattutto il posto, cioè il mare. Ma torna ogni tanto nelle Filippine? Assolutamente sì, cioè almeno una volta all'anno cerco di tornarci. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati, siamo questa sera con Christine Chua, imprenditrice di origine filippine che ha vinto il premio dell'imprenditoria immigrata MoneyGram Award, che viene assegnato ogni anno ai migliori imprenditori di origine straniera che, come dicevamo, in Italia resistono nonostante la crisi. Christine, Bruno Mars è un'altra canzone che lei mi ha segnalato. Come mai anche questa canzone parla di identità, no? Mi piace così come sei. Sì, mi piace perché soprattutto perché secondo me ogni donna soprattutto si deve sempre ricordare quanto bella è. Beh, lei cui... alla radio non la possiamo vedere, ma lei è molto bella in realtà. No, nel senso esternamente o internamente sì. Ma questa cosa di essere di origine filippina la caratterizza anche esteticamente? Lei appunto è una ragazza molto piacevole da vedere, però le è mai capitato di subire discriminazione nonostante la sua bellezza, magari proprio perché non è italiana? Discriminazione molte volte, nel senso mi è capitato anche a me, cioè mi è capitato un paio di volte che mi ricordo che sì, chiamiamolo discriminazione, spiacevoli, perché insomma situazioni, sì, spiacevoli, molto spiacevoli, sì, però non, di solito non generalizzo molto al come vedere altre persone, per cui in Italia ci sono quelle persone che non accettano gli immigrati, gli stranieri, ci sono anche tanto altro, cioè gentili e persone molto disponibili a aiutarci. E lei ha incontrato un po' questo, un po' quello, no? Vorrei che mi raccontasse, sì, proprio cosa è successo il giorno che è arrivata in Italia. Ho letto un suo racconto in cui spiegava bene le sensazioni di lei che è sbarcata, è arrivata in Italia a 18 anni e sua madre era qui già da 2 anni, se non sbaglio. Lei era una giovane laureata in informatica che aveva trovato lavoro nelle Filippine solo in un fast food, no? Ha preso, sì, la valigia e è partita. Che è successo? È successo che sì, non è che è così esaltante lavorare in un fast food, per cui il giorno che mia madre mi ha chiesto se volevo venire qui, non ho pensato minimamente o 2 volte per dire sì. Sono partita e niente, il resto è storia. Arrivata qui in Italia non sapevo parlare l'italiano. Sì, ho... È arrivata a Malpensa, preso... è partita con la pioggia. C'era il tifone, quel momento lì, per cui sì, la prima volta che prendevo l'aereo, la prima volta che lasciavo il paese... È arrivata a Malpensa, no? È un'emozione, no? Unica, ero molto agitata, paura, sì, mi sembrava anche normale perché non conoscevo dove sto andando e cosa sto andando a a fare. E poi ha vissuto un pochino con la famiglia che per presso la quale sua madre lavorava come colf badante. Sì, sono stati gentilissimi, a parte che sono state anche loro ad aiutarmi, aiutare la mamma per farmi venire qui in Italia. Lei da quanto non vedeva sua madre? Quando sono arrivata? Nel due anni, quei due anni che era via, che non... Per cui mi sentivo abbastanza tranquilla anche perché lei era qui, non ho tutta quella paura che sarebbe stato sola. Arrivando da sola, certo. Sì. Poi andò a lavorare a Milano in una casa. Sì, in una famiglia che molto ricca perché avevano una casa a due piani in centro Milano. Però lì sì, mi sentivo non tanto adatta a fare quel mestiere perché non è stata una bella esperienza, ecco, per non dire, cioè nel senso non sono stata bene perché mi chiudevano in casa con l'allarme, per cui ho detto dopo due settimane ho voluto cambiare lavoro, che fortunatamente ho conosciuto la famiglia dell'anziano che ho curato, che mi hanno trattata come una della famiglia, e da lì diciamo che ha un rapporto con questo signore anziano, no? Molto anziano. E mi pare di capire un rapporto anche di affetto. Molto di affetto, perché è stato lui quello che mi ha insegnato l'italiano, parlare l'italiano. Poi lui è venuto a mancare, e da quello che ho letto lei ha sofferto molto per questo rapporto che si è formato quasi da nipote a nonno. Sì. Mi sono sentita abbandonata in quel in quell'istante, però non so, secondo me è stato anche lui ad aiutarmi a trovare tutta la mia strada, perché prima di andare via mi diceva spesso: tu non devi star qui a sprecare il tuo tempo per me, tu sei giovane e devi fare altro più bello che ti piace. E poi insomma una parabola tutta in ascesa, perché è diventata, ha cercato lavoro, ha iniziato come operaia in questo reparto assemblaggio. Poi come una novella Cenerentola, un giorno c'era bisogno di parlare al telefono in inglese e le chiesero di rispondere al telefono, no? Poi? Sì. E da quel giorno mi hanno offerto la posizione centralinista, e da lì pian piano sono riuscita ad arrivare a gestire clienti, la produzione in Cina e tutto quanto. Secondo lei cosa ha contato di più? Allora, la conoscenza delle lingue, anche avere un aspetto piacevole, la capacità di adattarsi, la fame che notoriamente hanno le persone che spesso di origine straniera hanno più fame degli italiani di arrivare, no? Sì. La buona volontà soprattutto, e essere disponibile. Ho visto che comunque gli italiani lo apprezzano molto, la disponibilità e volontà di imparare, di fare nuove cose, di crescere soprattutto. Insomma, alla fine si è messa in proprio, insomma, con questa amica e il suo compagno, ha creato questa nuova società che sta andando particolarmente bene. Diceva appunto che lavora tantissimo. Sì. La fortuna che ho sicuramente, perché mi piace quello che sto facendo, il lavoro che faccio, mi piace molto, per cui non mi pesa la routine di tutti i giorni, e mi permette anche di viaggiare, per cui una delle mie passioni, viaggio molto, e Ed è contenta per questo. Non ci sarà tempo per cucinare? Beh, anche quello dedico del tempo quando arrivo a casa. Senta, qual è il sapore, il gusto delle Filippine di cui ha più nostalgia? Il gusto, perché in Filippine si mangia molto cibo con la base di latte di cocco. E qui in Italia sì, quello un po' molto speziato, il piccante, che amo molto. Allora facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori di cosa parliamo quando parliamo di cucina delle Filippine. Le oltre 7.000 isole che compongono le Filippine hanno una cucina caratterizzata da una forte presenza di prodotti di mare. Cucina che riesce ad armonizzarsi con le varie influenze avute nel corso dei secoli, cinese, spagnola, malese e indiana, pur continuando ad avere una propria caratteristica. Alla base della cucina filippina troviamo il riso, che fa da contorno tanto a piatti di pesce quanto a quelli a base di carne. È diffusa anche la pasta glutinosa, che proviene dalla Cina, così come i cinesi sono i classici involtini primavera. Di pari importanza è il latte di cocco, che troviamo nella preparazione di quasi tutti i piatti. Arrotonda, infatti, il gusto terroso delle anguille, quello dei pesci d'acqua salata e dei gamberoni. Ricordiamo che con i gamberi si realizza una vera e propria golosità della cucina filippina, vale a dire le frittelle. Insieme a peperoncino, aglio, curcuma e zenzero, il latte di cocco si usa per preparare la salsa piningat, un intingolo della regione del Mindanao che accompagna il pesce. Sempre per il pesce si utilizza una marinatura con aceto o succo di agrumi, magari accompagnando il tutto con dello zenzero. Con il maiale si ricavano delle salsicce che sono al contempo dolci e speziate. Inoltre, data l'influenza spagnola, troviamo anche il chorizo. Eredità spagnola sono anche le empanadas e l'adobo a base di pollo o maiale marinati. Per quel che riguarda i dolci, li troviamo a base di mango, secco o caramellato, ma anche con creme a base di pandano, arbusto del sud-est asiatico di cui si usano le lunghe foglie acuminate e profumate. Christine, le abbiamo fatto venire un po' di nostalgia del suo paese. Sì. Le Filippine in realtà sono un arcipelago di isole, quindi immagino ogni isola abbia il suo piatto tipico. Lei da quale zona viene? Vengo nel parte centrale dell'isola, Mindoro. Ecco, è una zona che è stata colpita da quel terribile disastro ambientale qualche tempo fa, di cui abbiamo sentito parlare nelle Filippine. Non molto, fortunatamente non ha fatto grossi danni nella nostra isola. Invece dell'Italia, che cosa le piace? Cosa invece di questo paese rimprovera questo paese in cui è venuta a vivere, che l'ha praticamente adottata? Se parliamo della legge italiana, lì ecco, c'è un po' di sbilanciamento nella... Lei dice come imprenditrice trova delle difficoltà? Sì, faccio un esempio che mi viene più facile. Cioè, per esempio, un dipendente è più avvantaggiato sugli imprenditori, nel senso trovano sempre le scuse per far causa alle aziende. Christine, come ha partecipato a questo premio, a questo concorso per l'imprenditoria straniera in Italia? Allora, un bel giorno il mio compagno mi chiama e mi dice: ti ho scritto. Ah, quindi è stata iscritta dal suo compagno. Sì. A sua insaputa. A mia insaputa, infatti, arriverà un'email per un modulo da compilare, mandalo e vediamo com'è. Deve poi ringraziarlo, insomma. Molto. Posso chiederle se il suo compagno è italiano o di origini straniere? È italiano. È italiano. Ha mai subito in qualche maniera il pregiudizio delle persone? È in fondo il tema anche della nostra trasmissione. Non so se ha visto il film da cui traiamo spunto, Indovina chi viene a cena. Lei ha mai sentito su di sé posarsi gli occhi un po' critici della gente quando è insieme al suo compagno? Tutti i giorni. Tutti i giorni, però ormai mi sono fatta l'abitudine e cioè, perché abbiamo anche una, cioè, una differenza di età non di poco. E quindi viene giudicato questo rapporto, lei sente su di sé gli sguardi di giudizio delle persone, come se lei se ne stesse approfittando, invece è lui che se ne sta approfittando, perché lei ha vinto il premio di migliore imprenditrice straniera dell'anno, quindi complimenti, davvero una bellissima carriera da badante a operaia a impiegata e ora imprenditrice. Christine Chua, in bocca al lupo per tutto, grazie per essere stata con noi stasera. Grazie. Grazie anche a Roberto Scaltritti in regia, a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo sempre sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.